Letture di Radio 24. Qualcuno lo chiama il Mandela venezuelano per la sua ostinazione nell'opporsi al potere. Per altri è il Renzi venezuelano, in quanto cattolico di centrosinistra. Leopoldo López è il leader dell'ondata di proteste che in queste settimane stanno dilagando in tutto il Venezuela per chiedere le dimissioni del successore di Hugo Chavez, Nicolás Maduro, ritenuto responsabile della grave crisi economica che sta attraversando il paese. Dal 18 febbraio López è rinchiuso in un carcere militare, dove potrebbe rimanere fino al 2024. Non finire in galera quando nelle ultime tre settimane il presidente del Venezuela, Nicolás Maduro, ha chiesto il tuo arresto 17 volte in TV a reti unificate e ti annovera di diritto nella trilogia del male con gli altri due principali leader dell'opposizione rimasti per ora in libertà, Enrique Capriles e María Corina Machado. Domande queste che Leopoldo López, 42 anni, leader del partito di opposizione venezuelano Voluntad Popular, si è posto mille volte. Ma ha scelto di non emigrare all'estero come avrebbe voluto il regime. Meglio il carcere. Devastato da mesi da una terribile crisi economica, manca tutto, dalla carta igienica al pane, il Venezuela è travolto dalla più poderosa ondata di proteste dalla morte di Hugo Chavez un anno fa. E per il suo opaco successore, Nicolás Maduro, il responsabile della radicalizzazione delle tensioni, è proprio Leopoldo López. Certo è che il giovane oppositore alla protesta nel DNA. Suo bisnonno si fece 14 anni in cella sotto la dittatura del generale Juan Vicente Gomez, mentre il nonno rimase in esilio per 17 anni. Leopoldo è anche discendente di Simón Bolívar, il Libertador, per cui niente paura della galera. Dal 18 febbraio López passa le sue giornate in un carcere militare, sorvegliato a vista, con la prospettiva di non uscire prima del 2024. È il prezzo, sostiene López, per chi, nonostante le minacce, si ostina a opporsi al progetto Castro comunista di Maduro. Per questo è stato ribattezzato il Mandela venezuelano. L'unica sua colpa è avere guidato la manifestazione studentesca del 12 febbraio, ritirandosi dalla strada e invitando tutti a fare lo stesso, molto prima dell'inizio dei disordini durante i quali cecchini e motociclisti Tupamaros hanno ucciso tre persone. Cattolico di centrosinistra, López è il Matteo Renzi venezuelano. Eppure una vecchia conoscenza del meeting di Rimini, dove è stato invitato come oratore. Il suo arresto per una sfilza interminabile di reati, compresi quelli di terrorismo e omicidio, suona ridicolo. Così come beffardo appare il mantra «In Venezuela si vota e dunque è una democrazia doc», ripetuto all'infinito dalle sinistre sudamericane. In primis da quella argentina, dove un fedelissimo di Cristina Kirchner ha invitato Maduro a fucilare López. Parlare di democrazia doc in un paese dove la guardia bolivariana spara contro la gente in piazza suona come minimo beffardo. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Paolo Manzo, Il Renzi venezuelano in carcere fino al 2024, da Panorama del 5 marzo. Letture di Radio 24. L'intransigenza paranoica, la sindrome da accerchiamento e la diffidenza che caratterizzano il movimento di Beppe Grillo non sono una novità, ma erano già stati teorizzati mezzo secolo fa in un saggio che analizzava l'influenza dello stile complottistico sulla politica statunitense. Ma c'è una profonda differenza, dato che gli Stati Uniti hanno istituzioni solide in grado anche di assorbire le esagerazioni dell'estremismo extraparlamentare, come commenta Christian Rocca in un articolo pubblicato sull'ultimo numero del magazine Il. 50 anni fa, nel 1964, il professore della Columbia University Richard J. Hofstadter scrisse per la rivista Harper's un saggio così influente e fortunato che ancora adesso non si può fare a meno di citarlo durante le discussioni colte sulla politica americana. L'articolo di Hofstadter, poi diventato un libro, è «Lo stile paranoico della politica americana», un trattato sull'influenza delle teorie complottistiche nella politica statunitense. Lo stile paranoico fu scritto ai tempi della vittoria del senatore conservatore e guru del movimento libertario Barry Goldwater alle primarie repubblicane per la presidenza degli Stati Uniti e descriveva la cultura del sospetto, le manie persecutorie e le fantasie dietrologiche che seguirono l'ascesa del senatore dell'Arizona e non solo la sua. Naturalmente alla Casa Bianca fu poi eletto il democratico Lyndon Johnson nella più ampia vittoria a valanga mai registrata alle presidenziali, a dimostrazione che l'anomalia disfunzionale non paga nemmeno in politica. L'emozione dura poco, poi arriva il contraccolpo. Questa patologia applicata alla politica continua a farsi sentire ancora oggi, a destra come a sinistra, con l'intransigenza suicida dei Tea Party e l'inconsistenza velleitaria degli Occupy Wall Street, con gli Snowden e gli Assange e i Greenwald convinti, grazie anche alla complicità della stampa borghese, di essere i nuovi Che Guevara contemporanei. Gli Stati Uniti, però, hanno istituzioni solide, regole consolidate, fair play bipartisan, da oltre due secoli, non da ieri. La polemica è molto spesso aspra. Il filibustering è stato inventato lì, ma nessuno delegittima davvero l'avversario e il sistema riesce ad assorbire le esagerazioni paranoiche dell'estremismo extraparlamentare. Noi, che pure non ci siamo mai fatti mancare niente, comunismo, fascismo e terrorismo rosso e nero compresi, fin qui ne eravamo rimasti esenti. Le menti arrabbiate, come le chiamava Hofstadter, nell'Italia repubblicana sono rimaste ai margini della politica, hanno frequentato le ridotte dell'eversione e sono state per lo più fenomeni di nicchia o al servizio di interessi o ideologie più strutturate che comunque si fronteggiavano nelle trincee democratiche della Guerra Fredda. Le ideologie novecentesche erano radicate nella società, basti pensare al PCI e all'MSI, e sono riuscite a contenere l'animosità, la passione e il delirio delle minoranze esagitate. Ma sconfitto il comunismo e assorbito il reducismo fascista, le cose sono cambiate. Oggi i protagonisti non sono più i vecchi partiti, né i loro eredi. Con l'avvento di Beppe Grillo, della Casaleggio Associati e della loro ideologia da romanzi Urania è cambiato tutto. Lo stile paranoico ora è tra noi. La sindrome da accerchiamento, l'idea che gli altri, i cattivi, stiano tramando con metodi illeciti, anzi occulti, per piegare il movimento, i diritti civili, la democrazia. Non credono a niente, quindi credono a tutto, dalle sirene alle scie chimiche, e non c'è verso di farli ragionare. Sono fanatici e non si fidano di nessuno, nemmeno dei loro amici. Presumono sempre la cattiva fede di chiunque non faccia parte del clan e sospettano che anche i membri ristretti del gruppo possano essere potenziali traditori. Infine, sono vittimisti, si oppongono alla mediazione, celebrano l'indifferenza allo scambio. Per loro ogni giorno è quello del giudizio, del colpo di Stato, dell'apocalisse, e non si capisce mai se lo temano o se ne siano tentati. Questa intransigenza insensata non è una strategia, come prescritto dai manuali dei regimi totalitari. Non sono così raffinati. Il lato paranoico è l'essenza stessa del movimento. Si comportano come fascisti o polpottisti, con violenza per ora soltanto verbale, ma in realtà non sanno, non capiscono, non conoscono. Il deputato che urla in Parlamento boia chi molla, convinto di difendere il collega che aveva dato del boia al presidente Napolitano, non sa che quello è stato un motto caro al Duce e poi l'inno dei moti della Reggio Calabria di Ciccio Franco. Quello che voglio dire è che non ci fanno, ci sono e non lo sanno. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Christian Rocca, Il nuovo stile paranoico della politica italiana, dal numero di marzo del magazine Il. Sotto il peso dell'accusa di aver esercitato pressioni sul quotidiano L'Ora della Calabria per non divulgare la notizia di un'inchiesta che vede coinvolto suo figlio, il sottosegretario alle infrastrutture Antonio Gentile ha rassegnato nei giorni scorsi le dimissioni, sebbene nessuna indagine fosse in corso contro di lui. Qualcuno però si domanda perché il suo gesto non sia stato imitato dai quattro sottosegretari indagati del PD. La doppia morale a sinistra esiste, nelle cose piccole e in quelle grandi, scrive Massimo Gramellini sulla Stampa, che poi prosegue. Cominciamo dalle piccole. Si può essere sollevati nell'apprendere che al culmine della crisi ucraina la ministra Pinotti abbia trovato il tempo per andare a sgranchire le gambe sue e della sua scorta in una maratona a Ostia. Ma non si può fare a meno di domandarsi che cosa avremmo detto se un ministro della difesa di Berlusconi, magari proprio Ignazio La Russa, avesse lasciato curvo sui dossier euroasiatici qualche generalissimo secchione e se ne fosse andato allo stadio con il figlio Geronimo e gli amici Malanimo e Boro Seduto. Passando a questioni più serie, l'intero paese fa la ola per il congelamento del sottosegretario Gentile, il luogotenente calabrese di Alfano, coinvolto in una storiaccia di intimidazioni a un giornale. Ma, terminata la ola, qualcuno comincia a chiedersi perché Gentile sia fuori dal governo, mentre i quattro sottosegretari indagati del PD rimangono dentro. Lascia stupefatti Francesca Barracciu, la vincitrice delle primarie sarde, indotta a ritirarsi per via dell'indagine che le contesta una cresta di 33.000 euro sulle note spese. Come mai chi non andava bene per fare la governatrice a Cagliari va benissimo per fare il sottosegretario a Roma? Forse perché nel primo caso sarebbe stata sottoposta al vaglio degli elettori e nel secondo no? Quando la Barracciu uscirà dall'inchiesta bianca come un giglio, sarà un piacere riabbracciarne i talenti sottosegretariali. Ma nel frattempo un governo senza indagati rappresenterebbe una novità rivoluzionaria, molto più del pastrocchium elettorale appena varato. E quello che avete ascoltato era l'articolo di Massimo Gramellini e la Barracciu dalla Stampa del 5 marzo. La gara per l'idea più inutile del 2014, la lotta è titanica, per ora vede in testa la proposta di uno stipendio fisso alle casalinghe che sia pagato dai mariti o dallo Stato. Servirebbe in chiave antiviolenza e antidiscriminazione. Dobbiamo questa illuminazione a Giulia Bongiorno e a Michelle Hunziker, due a cui va riconosciuta una certa esperienza in fatto di idee inutili o talvolta anche solo sbagliate. Il progetto è impraticabile anzitutto per motivi ovvi. Non ci saranno mai i soldi per pagare uno stipendio a 5 milioni di casalinghe. Fine della questione. Se anche ci fossero, in secondo luogo, andrebbero investiti in politiche che consentano alle donne di non fare le casalinghe, asili, scuole, incentivi per il lavoro e part-time. È notoriamente il lavoro fuori casa il miglior viatico per l'emancipazione. Senza contare che istituzionalizzare la casalinga come professione renderebbe più appetibile uno status che in Italia marginalizza le donne come in nessun altro paese europeo. Poi ci sono le truffe. Molte prenderebbero lo stipendio a sbaffo, mentre altre, per il mazzo che si fanno, meriterebbero la paga di un manager. Quanto alla violenza, l'idea che un marito violenti la moglie in quanto ontologicamente sottomessa resta improbabile, ma in ogni caso è da immaginarsi quanto si sentirebbe onnipotente costui se alla moglie pagasse pure lo stipendio. L'idea più inutile del 2014 offre però un solido motivo di consolazione a Bongiorno e Hunziker. L'anno è ancora lungo. E quello che avete ascoltato era l'editoriale di Filippo Facci, Le disoccupate volontarie, da Libero del 5 marzo. A Torino, nel quartiere multietnico di San Salvario, la piccola parrocchia locale è circondata da pub e discoteche, oltre che dalla moschea più grande della città. Non c'è da stupirsi se l'iniziativa di tenere aperta la chiesa anche di notte, organizzata lo scorso 1 marzo per cercare di offrire ai ragazzi un'alternativa allo sballo del sabato sera, fosse destinata al fallimento. Ma l'arcivescovo di Torino non è uno che si lascia scoraggiare facilmente. Se la montagna non va a Maometto, Maometto va alla montagna. Ma qui non c'entra il profeta dell'Islam. Siamo a Torino e il protagonista è l'arcivescovo Cesare Nosiglia. Proprio lui che qualche giorno fa, all'inaugurazione dell'anno giudiziario del Tribunale Ecclesiastico Piemontese, aveva detto a proposito delle coppie non consacrate dal sacramento del matrimonio: «Bisogna avvicinarle con amicizia e serenità di dialogo, offrire loro la possibilità di confrontarsi sulla parola di Dio e sulle loro scelte di vita». Più o meno le parole pronunciate in quelle stesse ore da Papa Francesco. Ebbene, sabato 1 marzo, nella notte della Movida di San Salvario, il quartiere torinese multietnico pullulante di locali, pub, caffè, ristoranti e soprattutto la zona dello spaccio e dei pusher, la parrocchia dei Santi Pietro e Paolo aveva aperto il portone per lasciare entrare i giovani fedeli che volessero interrompere l'estasi festaiola per concedersi un momento di riflessione e di intimità spirituale. Un'iniziativa, appunto la Movida Spirituale, promossa dal parroco e dai ragazzi dell'oratorio. Per la prima era stato invitato l'arcivescovo, come per le grandi occasioni istituzionali, ma neanche il calcio balilla collocato lì davanti aveva attirato grandi folle. Anzi, insomma, sembrava un'iniziativa fallita. È stato così che Monsignor Nosiglia ha deciso di rompere l'imbarazzo. Si è messo sulla testa bianca il berretto ed è uscito sulla strada per affrontare l'allegria mondanissima della notte. Se i giovani non vanno in chiesa, la chiesa va ai giovani. Forse è memore della lezione di Don Milani, m'ero fatto prete per correre verso il male sulla strada, forse guidato dall'alto, forse interpretando la filosofia francescana di Bergoglio, uomo disarmato, fornito solo del suo sorriso e della sua dottrina, con l'abito nero di un prete di campagna, ha avvicinato le anime smarrite nella speranza che lo fossero solo provvisoriamente. Dunque, l'arcivescovo di Torino appare nelle fotografie, a futura memoria, tra bicchieri semivuoti, alle sue spalle i tag di graffiti incomprensibili come un ET in veste di missionario in città, circondato da nugoli di ragazzi e ragazze sorridenti e pronti ad ascoltarlo. E l'ascolto, si sa, è il primo passo. Il resto, semmai, verrà. Avete ascoltato la lettura dell'editoriale di Paolo Di Stefano, L'arcivescovo nella Movida di Torino, una chiesa che sa parlare ai giovani, dal Corriere della Sera del 3 marzo.